Forse tu la pensi diversamente, come me del resto facevo io fino a qualche tempo fa, ma sono arrivato a questa conclusione dopo aver riflettuto a lungo. Che cosa pensi quando leggi che, nel nome di un'industrializzazione frenetica e di un progresso senza limiti, i 5 miliardi di tonnellate d'aria, di cui dispongono 4 miliardi di uomini, diventano sempre di più una massa avvelenata? Che 40 litri di benzina possono esalare fino a 20 grammi di piombo nell'atmosfera? Che un solo aereo a reazione del tipo Boeing 707 brucia 35 tonnellate di ossigeno per ogni attraversata dell'Atlantico? E che questo corrisponde a ciò che produce in una notte una foresta di 17.000 ettari? Che è stato provato scientificamente che dall'Artico alle oscure foreste vergini dell'Africa. Mi chiedo se sei ancora favorevole al progresso quando leggi che il 70% dell'ossigeno proviene dal plancton costituito da microrganismi marini e che l'uomo ha inquinato il mare con 8 milioni di tonnellate di carburante, 20.000 tonnellate di piombo, una quantità quasi incalcolabile di mercurio, cadmio, fosfati e concimi che riducono la vita del 30%. E a tutto ciò si aggiungono gli esperimenti con le bombe atomiche, all'idrogeno, al cobalto e balistiche. Non si tratta solamente dell'intossicazione dell'aria, ma della distruzione delle riserve di ossigeno, indispensabili alla vita. Dobbiamo onestamente ammettere che il progresso uccide l'uomo, e come credente non posso fare a meno di constatare che lo uccide anche spiritualmente. Siamo abituati a chiamare la Svezia il giardino del Nord, il paradiso europeo, perché nessun altro paese al mondo è organizzato con tanta efficacia per procurare comodità e benessere al cittadino, dalla nascita alla morte. Eppure su 8 milioni di svedesi, 2.000 persone ogni anno si tolgono la vita e 20.000 tentano il suicidio. Una di queste, salvata in extremis, disse di aver visto nel suicidio l'ultima emozionante avventura di un'esistenza, che il benessere rende troppo sicura e troppo monotona. E questo non è un caso isolato perché, da una recente ricerca, in Francia il 15% soffre di depressione, una media di circa 500 persone ogni giorno tenta il suicidio. In America, la nazione più ricca del mondo, si contano circa 5 milioni di alcolisti. In Italia, un terzo della popolazione prende psicofarmaci. Quello che dicono le statistiche dimostra che la tanto discussa civiltà del benessere e il dilagante materialismo pratico del nostro sistema di vita che l'accompagna non creano un clima favorevole per lo spirito dell'uomo. E coloro che hanno posto fede in Cristo, purtroppo anche loro si lasciano influenzare dall'ambiente nel quale vivono. Basti pensare ai primi cristiani che abitavano nella città di Corinto. I cittadini di Corinto erano orgogliosi della loro educazione e istruzione, accettavano ogni tipo di immoralità, e i credenti avevano delle problematiche proprio in relazione all'orgoglio e all'immoralità. Così, senza accorgersene, i credenti di oggi si trovano a lamentarsi e a mormorare quando vengono meno le comodità e gli agi che questa società offre. Con saggezza divina a questo riguardo, l'apostolo Paolo scriveva al suo figliolo Timoteo: ora la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo perché non ne possiamo neanche portar via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Gli agi non sono certamente utili per esercitarci a ricordare che, poiché Cristo ha sofferto nella carne, anche noi dobbiamo armarci di questo stesso pensiero. Chi di noi può dire con Paolo, in tutta sincerità, per lo Spirito Santo, io mi compiaccio, cioè trovo piacere, soddisfazione, in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo? Non è facile trovare piacere nelle cose sgradite, ma non lo è stato neppure per l'Apostolo, perché se egli ha potuto fare questa affermazione, aveva innanzitutto imparato ad essere contento nello stato in cui si trovava. Inoltre, egli era stato ammaestrato ad essere nell'abbondanza come ad essere nella penuria, ad essere saziato come ad aver fame, ad essere abbassato ed anche abbondare. Per cui l'accontentamento d'animo non fa parte dell'elenco dei doni dello Spirito Santo che si ricevono al momento della nuova nascita mediante un atto di fede in Cristo, ma rimane per un esercizio quotidiano per il credente. E se si lascerà ammaestrare da Dio mediante le circostanze, potrà anche e gli dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, cioè non solo riuscirà ad adattarsi in una società di benessere, ma anche nelle necessità, nelle ingiustizie e nelle persecuzioni. Ma ribatterà qualcuno, dobbiamo ringraziare il progresso perché mediante la radio e la stampa, ringraziando il Signore, questo è vero. E come credenti, accettiamo questi vantaggi materiali come buoni doni di Dio, ma guardiamo anche l'altro aspetto della medaglia. I metodi della nostra età meccanizzata indirizzano i credenti ad avere soprattutto una visione di massa, di numero, mentre è necessario portare l'Evangelo nelle case anche mediante opuscoli, visitare le famiglie interessate, visitare le vedove e gli orfani nelle loro afflizioni, incoraggiare i credenti deboli, visitare gli ammalati, i credenti anziani che non possono muoversi, e tutte quelle piccole cose che non si vedono, ma servono per l'edificazione della Chiesa. Cosa dire poi di quei credenti che non leggono e non meditano la parola di Dio accontentandosi di leggere la meditazione di un calendario cristiano, soddisfatti di aver adempiuto a chissà quale comandamento? Dobbiamo essere onesti, le comodità, il benessere, gli agi producono più apatia che zelo. E spesso sono occasioni per rivelare tendenze negative che non possono essere messe in mostra con le necessità. Cosa dobbiamo fare per non lasciarci influenzare negativamente dal progresso? Ancora una volta la parola di Dio ci dà una risposta per avere una visione nuova del progresso. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. 1 Corinzi 7.3031. L'apostolo Paolo prende l'occasione di scrivere ai Corinzi per gettare alcuni principi di come deve vivere il credente in questo mondo. Innanzitutto occorre misurare i propri sentimenti affettivi e non porre troppo il cuore sul benessere che producono le nostre relazioni sentimentali. Questo ordine di Paolo arriva come una mazzata nella nostra vita perché per la maggioranza delle persone, le relazioni matrimoniali, la famiglia, sono affetti che hanno il primo posto e si cerca di conservarli a tutti i costi. Nulla di sbagliato nel provare forti sentimenti per il proprio coniuge e figli, ma quando questi prendono il posto di Dio e del suo regno, ecco che lo diventa. Il progresso, il benessere, l'aver trovato quell'armonia familiare tanto agognata, costituisce un pericolo per una vera consacrazione a Dio. Il progresso e il benessere ci evitano molte sofferenze e di questo dobbiamo essere grati a Dio, ma non ci abituano alle difficoltà della vita e accade che nella sofferenza ci sentiamo come pesci fuor d'acqua. L'apostolo Paolo, che di sofferenza ne sapeva qualcosa, invita i figli di Dio a non abbandonarsi alla tristezza come coloro che non hanno speranza, ma a conservare la gioia di Cristo. Piangere sì, ma senza essere disperati. E così pure con la gioia. Il credente deve rallegrarsi, ma non deve fare di questa allegrezza lo scopo della sua vita, come pure dell'uso delle cose di questa vita. È inevitabile che si usi tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma anche in questo aspetto non dobbiamo abusarne, non dobbiamo porci troppo il cuore, perché la nostra esistenza è un passaggio. Tutti siamo coscienti di dover prima o poi lasciare questo mondo, eppure la maggioranza delle persone vive come se non dovesse succedere. Lo ha espresso molto bene il salmista. Tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono gli stolti e gli insensati e lasciano ad altri i loro beni. Internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre, le loro abitazioni siano eterne, e così danno i loro nomi alle terre. Eppure anche l'uomo che vive nelle ricchezze non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Salmo 49.1012. Il progresso è un grande dono di Dio, ma come tutti i doni, se non vengono usati bene, e dato il giusto posto possono provocare gravi danni, sia materiali che spirituali. Che il progresso procuri dei danni materiali di ogni genere, gli uomini ne stanno prendendo coscienza. In televisione ho visto un servizio dove si illustravano i grandi sconvolgimenti atmosferici negativi che si stanno abbattendo sulla Terra, e alla fine chi commentava questo servizio ha terminato dicendo: qualcosa non sta andando nel verso giusto. Qualcosa non sta andando nel verso giusto, e gli uomini non hanno compreso che questo qualcosa non è riferito a ciò che succede nel mondo materiale, ma è nell'universo spirituale. Gli uomini sono egoisti, amanti del denaro, senza timor di Dio, e per questo sfruttano a più non posso, meno a discapito del benessere dell'uomo, ogni risorsa terrestre. In genere l'uomo non vuole sentire parlare delle cose di Dio, dei suoi progetti e piani, ma il cristiano non ha altra soluzione, soluzione proposta anche dal profeta Isaia. Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché esso non cic, è luce. Si aggirerà per il paese affranto e affamato, e quando sarà affamato, si irriterà e maledirà il suo re e il suo Dio. Volgerà lo sguardo in alto, poi lo volgerà verso la terra, ed ecco calamità, tenebre, oscurità piena di angoscia, e sarà sospinto nelle più fitte tenebre. Isaia 8.2022. Non è forse quello che sta succedendo oggi? Dobbiamo dunque essere grati a Dio del benessere, ma se è controproducente dobbiamo vivere come se non ci fosse. Febbraio 1977. Novembre 2005. Ellero.